Dunque, ritorniamo qui, Radio Talk, c'è tutta la banda di Web Radio, questo mi fa enormemente piacere, c'è Emilio vestito veramente come un siberiano. Fa freddo, sì, fa freddo, giustamente siamo al 4 novembre, quindi giustamente fa freddo, a novembre che vuoi, i pinguini, no, pinguini no, però voglio dire, neanche quello con l'ombrellino che va e viene. Sì, mi è arrivata la posta dell'Inps, come vi dicevo, di qualche settimana fa. Quei tre gol sciagurati di Nocerino, che a cui replico, caro mio regista che stai lavorando, Nocerino è stato imbarati del Piero. Ma non credere che ho finito quelle frasi. Calmini, che ancora c'ho un'altra 15 frasi da spararti in questa puntata. Frasi della Juve che ricordiamo, ogni ascoltatore sta apprezzando, mi stanno mandando delle mail volentieri. Sì, sì, ma i milanisti non possono apprezzare l'arte. Comunque, a proposito di arte, la mia vendetta che avevo annunciato qualche settimana fa contro Barbara D'Urso, quando voi avevate visto una Barbara D'Urso che faceva 4 milioni di ascoltatori con Baile, il programma dell'anno, arriva questa bella notizia, Messaggero, filmata 22 ottobre 2011, quindi scusate anche la cronologia è andata un po' a farsi benedire, il giudice conferma, Baila era un plagio. Zazzan. Quindi, cari miei ascoltatori, riascoltatevi qualche vecchia puntata e scoprirete che Maneggio ogni tanto ci azzecca. Dunque, con Baile, questo programma spudoratamente copiato da Ballando con le Stelle italiane e non quello americano, c'era stata anche una discussione su questa, dove la Canalis se n'è andata a farsi benedire già qualche tempo fa. Baila, dunque, talent ballerino, come si definisce, muore due volte, cioè proprio non hanno più pietà. Non hanno più pietà, dunque chiuso sia per manifesta scarsità, se possiamo dire così, di risultati, e chiuso anche perché era un plagio bello e buono. Dunque, cara Barbara D'Urso, hai fatto secondo me il 15° plagio della tua vita e il 16° flop, considerando anche Reality Circus, che qualcuno ricorderà Reality Circus per la partecipazione di Ciccio Graziani, epurato da Campione, ma questo è un altro discorso. E parlando proprio di programmi televisivi, in cui il plagio non manca mai, dobbiamo senza dubbio citare i programmi televisivi inerenti alla cucina. Mentre qui il pubblico parla, si diverte, mangia, guarda le pensioni, i contributi, eccetera, eccetera, io vado avanti con tutta tranquillità, mentre tra poco sparerò qualche frase della Juventus, sempre di soppiatto, così. Zanzà, sì, fischierò così, tipo Trapattone col Migno. Dunque, programmi di cucina, all'epoca c'era. E c'è la prova del cuoco, denominata a Cosenza anche la prova del cucco, ma questi sono gusti personali. Antonellona Clerici, che non ha rinunciato alla prova del cuoco nonostante la figlia, il marito che è un po' divorzio, un po' no, eccetera, eccetera. Sì, è una cornutaccia, sì. È una cornutaccia Antonella Clerici, me ne assumo la responsabilità come sempre, e come sempre il nostro grande saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e ci seguono dalle case di cura e di riposo degli ospedali. Maria Quinta vi abbraccerà uno ad uno, soprattutto ora che Maria Quinta l'ho avuto anche ospite al ristorante, quindi ci vuole un applauso, ma silenzioso, per Maria Quinta. Bah. Dunque, in principio, dunque, era Antonella Clerici, e poi il fenomeno da baraccone denominato Benedetta Parodi, che, come voi sapete, Benedetta Parodi è innanzitutto la moglie di Fabio Caressa, quindi immaginatevi i figli come sono sordi già dalla nascita, figli sordi e morti di fame, visto che le ricette di cose di Benedetta Parodi non è che erano tutta sa bontà, le torte con le molliche di pane, gli scarti, i rifiuti, ma soprattutto la sua nomea ce l'ha, ed è una nomea di lorda, in termini paesani, una che si lecca il dito e poi ve lo mostro in telecamera, e non è una bella cosa. Laura confermerà che forse ogni tanto cucina, leccarsi il dito in cucina non è una cosa molto, molto gradita e molto igienica soprattutto. Sta mostrando in televisione cotto, slam e slingua, prego. Fanno poco schifo, sì, il commento luzzese originale ci vuole, fanno poco schifo. E nonostante tutto Benedetta Parodi è riuscita a prendere un programma di un'ora sulla 7. Cioè, i menù di Benedetta, che... Io faccio un'ora, quindi siamo pari e patti, io e Benedetta Parodi, facciamo schifo tutte e due, in questo caso. Dunque, Benedetta Parodi addirittura viene ripromosso in questa emittente rilanciata alla grande da Mantana e soci, ma al suo posto arriva una sostituta, solita sigla, non c'è più Neil Armstrong che suona la tromba, no, Louis Armstrong, per carità, mi correggo la gaffa, se no qualcuno in onda ci ammazza e ci bestemmia in diretta. Al suo posto una che non ha mai cucinato in vita sua, Tessa Gerisio, e lo vi mostra, con una fascia rimasta sembra quella tra la fine del telegiornale, il meteo e i 5 minuti di pubblicità che anticipano Studio Sport, una fascia proprio dove gli ascolti si impennano. Ma abbiamo detto della Gerisio, abbiamo detto di Benedetta Parodi e dobbiamo parlare della TV di cucina per eccellenza sul digitale terrestre, quella meravigliosa TV denominata Cielo, la Sky italiana, dove si prendono i telegiornali di Sky e qualche altro materiale di riciclo. Cielo addirittura ha inventato una TV totalmente di cucina, reality show di cucina, programmi di cucina ed esecuzioni mortali di cucina, quando c'è un programma fatto da una sorta di tedesco, non ricordo il... Creo Gordman come cuoco, ma non ne sono sicuro, una sorta di Master Chef, dove veramente i cuochi vengono divisi, 20 uomini e 20 donne, e si devono uccidere praticamente tra loro nel cucinare i polipi. Scene veramente assurde, gente che piange, gente che si dispera, gente tatuata, veramente altro che Benedetta Parodi, che va in cucina a mani nude, e poi il cuoco sceglie le sue combinazioni. Ma ce l'ho rilanciato quest'anno con un reality show in cui vi sono tre cuochi che giudicano altri pseudo cuochi, insomma, veramente... Se volete mangiare, non guardate dunque la TV. E come ricordare, la prima TV, quella che fu pioniera, diciamo, dei programmi culinari, quella sorta di esperimento globale di Gambero Rosso, dove si cucinava veramente poco e si parlava molto di problemi delle donne. A un certo momento si parlò anche di qualche problema di menopausa tra un filetto e un secondo, ma insomma... Per fare audience si fa tutto, per fare audience come sottoscritto si saluta gente, si riparla sempre delle stesse cose, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, abbiamo parlato di cucina, non c'è Alessia perché dalla prossima settimana Alessia Pisilli farà una nuova rubrica, la piazzeremo alla fine e la rubrica si chiamerà Pelle di Pollo, perché non ci sono più nomi, i copyright sono finiti, Alessia vi dirà una ricetta... breve, 3-4 minuti eccetera eccetera, dopo ruoplo, quindi pensate un po' che ne può uscire fuori. Sarà una ricetta sperimentata da lei, forse addirittura c'è la cucina e me la fa mangiare in diretta. Pensate un po' dove possiamo arrivare nel ridicolo e nello scandalo. Dunque io direi, mio caro Nicola, di mandare il secondo pezzo, questa volta l'ho scelto io e non Alessia, e vado a ripescare i Bostel, che non erano mai stati presi forse in considerazione tutta Web Radio Luzzi nella sua storia. Dunque mandiamo il liberalismo ai giorni contati, e col tema dell'euro si sposa che è una meraviglia. Ci ritroviamo sempre qui in diretta su Web Radio Luzzi, ma senza computer, quindi non posso leggere i vostri messaggi. E parentesi tra le parentesi, la chat non è più sul sito ma su chat.it. Iscrivetevi, aggiornate eccetera eccetera, è un bel portale molto sicuro peraltro, quindi andate lì, ci ritrovate in qualche forma oscura. Dunque mandiamo la musica e tra un pochino ci ritroviamo qui.